Sono le ore 20 e 36 minuti primi, come già preannunciato da tantissimo tempo su tutti i social, su tutti i quotidiani d'Italia, inizia 80 Special, un programma di musica e tendenze anni 80 con Carlo e Marco Mix, che chissà se oggi ha studiato. Ma diciamo di sì, dai. Va bene, dai, questa volta ti supporto io. E comunque ricordiamo che questo programma è sempre a rischio, perché noi siamo più litigiosi dei Gallagher, dei fratelli Gallagher, di Oasis. Abbiamo dei punti un po' differenti di veduta. No, stiamo scherzando, non succederà mai questo. Però potrebbe succedere. Allora, questa sera tratteremo la Italo Disco, un periodo musicale della nostra vita che insomma ci ha fatto divertire tantissimo. Si chiama così Italo Disco perché un produttore tedesco decise di affiliare questa denominazione a un periodo musicale italiano, quello degli anni 80, in cui veramente gli artisti italiani si fecero conoscere tantissimo all'estero. Eh sì, infatti ci sono diversi artisti che hanno un pochettino così approdato dalla musica, per esempio dalla musica sono partiti magari da radici un po' più nobili, tra virgolette, di musica rock progressive, e si sono diciamo così trasferiti, o meglio sono andati a migrare su delle diciamo così zone musicali nettamente più commerciali. Questa sera inizieremo ad ascoltare un grande artista che approdò nel mondo musicale nel 72 con un long playing chiamato Aria. E lui nel 77, nel 79, sì, produsse un album che ebbe un successo grandissimo, New York Lohei, e questa è la famosissima Figli delle Stelle. Alan Sorrenti. Ciao. dovunque io sarò, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Per sempre figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Allora, Alan Sorrenti, che prima di fare questi brani da Disco Music, insomma, ha avuto anche un percorso musicale piuttosto importante, si era dedicato alla musica progressive e insomma fece un paio di album veramente bellissimi che poi sono rimasti nella storia della musica italiana, certo completamente diversi da quelli che seguirono. Alan Sorrenti, primo brano qui a 80 Special con Marco Mix, e questa era la famosissima Figli delle Stelle. Thank you. got a lot to show. You and me. Why don't you feel me? You and me. Why don't you feel how I feel? I wanna love you. I wanna feel your love. I wanna touch you. I wanna feel your touch. Body to body. Body to body. Body to body. Jeppi e suo vero nome è Giampiero Scalamogna, che purtroppo ci ha lasciati nel 2006, uno dei primissimi pezzi della disco music. Jeppi era veramente stato definito il Barry White italiano, poi è stato anche produttore, ha fatto diverse cose anche con Ornella Vanoni e insomma ha fatto una carriera musicale veramente a 360 gradi, e questo brano era famosissimo negli anni, a fine proprio anni 70, Jeppi & Jeppi con Body to Body. Ritorniamo un pochettino con i ritmi un po' più, tra virgolette, un po' più disco, un po' più ballabili. E questa volta ci trasferiamo a Roma, un gruppo, diciamo, mitico per quel periodo. Parliamo di Paul Micioni, parliamo di Claudio Simonetti, che è stato anche il fondatore dei Goblin, che hanno praticamente fatto la colonna sonora del film Profondo Rosso. Easy Going è anche negli anni 80, nel 78 precisamente, anche un locale particolare, un locale gay di Roma, situato vicino a Piazza Barberini. Simonetti volle questo mitico long play, questo mitico brano. Questa è Baby I Love You. Benissimo, Easy Going, quindi parliamo di Paul Micioni e il mitico Claudio Simonetti, questo è un bellissimo brano che si chiamava Baby I Love You. Un altro gruppo famosissimo negli anni 80 che spopolò con questo brano fu la Peter Jacks Band, il cui produttore Mauro Malavasi, insomma, ha inanellato tutta una serie di successi sia in Italia che in Europa, ma che anche negli Stati Uniti. Questa è Walking on Music. Gli anni d'oro della dance italiana, questo è Mauro Malavasi, Peter Jacks Band, poi uno dei componenti che si chiamava per l'esattezza, vediamo un po', Freder Petrus, negli anni, nell'86 ci abbandonò. Questa era Walking on Music, continuiamo ancora con la musica anni 80, questo è veramente un grande pezzo. Un grandissimo pezzo, sono le ore 21. Io ricordo benissimo questo brano che si chiamava appunto I'm a Man Macho, ed era anche un po' particolarmente ritmato, quindi con diciamo una forte tendenza elettronica. Voglio salutare tutti gli amici che ci stanno ascoltando, partendo appunto dalla Sicilia, quindi Carlo, Federica, eccetera. Poi voglio salutare Claudio che si trova in Kazakistan, Jimmy DP che si trova probabilmente a Dubai, e tanti altri amici che sono diciamo geolocalizzati. Jimmy, il nostro amico Jimmy ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando, ci abbiamo salutato da Dubai, credo che si trovi sicuramente a Dubai. Casomai correggimi, mandami un saluto, un messaggio e fammi sapere dove ti trovi. Anche in questo brano c'è lo zampino di Mauro Maravasi, Macho MMN. Questa è una cover di un famosissimo brano della Spencer Davis Group, I Am a Man, un pezzo che porta la firma di Steve Winwood. Quando sono le 21:05 minuti primi, non dico che siete sintonizzati perché quei tempi sono finiti, però siete ben piazzati sulle nostre piattaforme, sulle nostre, come dice Carl Bartel Boom, sulle nostre piattaforme social e musicali, che sono tantissime. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su www.radiocerrano.net, su iTunes, su Radio Garden, radio.net, Listen to My Radio e tantissime altre piattaforme. Treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're given what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Going places, it's a wonder, it's so clear. By a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our fair talking in the glow. Shining star, here in the love, no matter who you are, here in the love, the splendor of it all. We're surrounded and abounded, summer, spring, winter, and fall. All the people meeting, people laughing, dancing till the dawn. And we'll always be like this, flowing in the glow of love. Time will always be our friend. Reaching far to find a star, our destiny is heaven sent. Making known this loving tone, we'll never part the two of us. We will always reminisce, kissing in the glow of love. Questo brano ebbe un grandissimo successo negli Stati Uniti, anche perché per questo gruppo fu progettato un sound veramente molto molto soul funky, che rifaceva un pochettino sì il verso agli Chic, ma che fu considerato di grandissima qualità. Tant'è che per fare questo brano, per cantare questo brano, fu, diciamo così, chiamato Luther Vandross, che a quei tempi non era famosissimo, e anche Jocelyn Brown. Comunque questo, anche in questo brano, come tutti i precedenti che abbiamo ascoltato, c'è sempre lo zampino di Mauro Malavasi. Living when we're given what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. E chi non si ricorda del grande Mike Francis? Questo è stato un brano che l'ha consacrato veramente al successo. Si chiama Hey Survivor, Mike Francis. Survivor, only with the one that we belong to. They chose the game to play, they won't win again. We know you can do it, and we know you can do it. We know you can do it, and we know you can do it. Hey, survivor, you're gonna fly away to the places you've been many times with a friend. Don't you be afraid, we are waiting for you and soon you'll be back again. Hey survivor, don't close your eyes. Take advantage, slide in on the night. You're the one that we belong. They want to play the game, but they won't win again. We know you can do it, and we know you can do it. We know you can do it, and we know you can do it. Hey survivor, we're gonna fly away. There will be another day and people won't be afraid. Hey survivor, we'll fall in love again. Knocking on the door, you will think about the things to say. Era il grande Mike Francis, che ovviamente è pseudonimo di Francesco Puccioni, purtroppo ci ha lasciato nel 2009. Un sound direi decisamente fusion, grande spessore musicale, comunque sempre diciamo dance. E poi questa era anche la sigla, cioè la sigla era, faceva da jingle Radio Dimensione Suono, che per dirla come dalle nostre parti, insomma, ci inzuppò il pane. Sì, perché lui comunque, diciamo, la sua carriera musicale l'ha maturata moltissimo a Roma, anche se era, diciamo, di nascita fiorentina, se non erro. Sì, è comunque un musicista molto preparato, a 360 gradi, iniziato con da ragazzo a suonare il pianoforte e poi dopo i grandissimi successi si è dedicato un pochettino alla deep music, alla musica lounge, anche qui con grandi successi. Andiamo sempre avanti e a questo punto iniziamo un pochettino, come possiamo dire, una parte più leggera di questa special 80 dedicata alla Italo Disco. Gazebo, Masterpiece. Behind. star. They all gather to celebrate. Happy birthday, my honey dear. What a joy to see your old mates in this Hollywood atmosphere. With us at last. Masterpiece, you should have seen. Era un successo, anche questo un successone degli anni 80, Masterpiece, Gazebo, il cui vero nome è Paul Mazzolini e poi nato in Libano. E anche qui però c'è lo zampino di Paul Micioni, poi in seguito Gazebo suonerà, produrrà i suoi dischi per la Baby Record di Nagyar. Siamo giunti alle 21 e 23 minuti primi, questa è Radio Cerano Web, all'ascolto di Special 80 con Carlo e Marco Mix. E noi vi ricordiamo che siamo presenti anche su tutta una serie di piattaforme musicali quali TuneIn, Radio Garden, Radio.net, Lista in Tune Radio. E c'è un'altra, anche un'altra piattaforma, che ovviamente un'app che sì, possiamo scaricare. No, è un'app, non è una piattaforma, è un'app che viene scaricata appunto dal sistema iOS, si chiama Radio Box, dove appunto potete scaricare Radio Cerano Web. Sì, e in questa e la potrete avere sempre su questa applicazione, smartphone. Ecco, su questa applicazione è particolare, questa applicazione è particolare perché potete visualizzare anche tutta la nostra playlist. Gary Love, You Are Danger, che sono Gary Love, il cui vero nome adesso mi sfugge. Vediamo un po' se sta da qualche parte. Eh no, non l'ho scritto. Figlio, insomma, lui di origine spagnola, però nato a Roma, quindi italianissimo. Questa era You Are Danger, Gary Love. E questo, cari amici, è l'ultimo brano per questa sera. Gruppo di Ancona. Gruppo di Ancona. Via Verdi. Questa è Diamond, che era anche la sigla del programma musicale Disco Ring. Ultimo brano per oggi. Veramente carino questo brano, Via Verdi, Diamond, gruppo che fu prodotto da Claudio Cecchetto, gruppo che si è costituito dalle parti di Ancona. 21 e 31 minuti primi, è giunto il momento di salutarci e come al solito lo facciamo su un pezzone, sulla nostra sigla, possiamo definirla diversamente, Gary's Gang Showtime. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato dalle varie parti d'Italia, dalle varie parti del mondo, e anche alcuni che sono appunto geolocalizzati in altre parti del mondo. Vi volevamo ricordare un po' i brani che abbiamo ascoltato quest'oggi, quindi partendo dal mitico Alan Sorrenti, Jeppy & Jeppy, Easy Going, Peter Jack Band, Macho, Change, Mike Francis, Gazebo, Gary Love e infine Via Verdi. Oggi abbiamo fatto uno special 80 Italo Disco, appunto dedicato. Possiamo ritornarci su questo filone tra qualche settimana, perché chiaramente ci sono dei brani molto molto molto belli, anche molto famosi, da riproporre. Allora, Carlo e Marco vi salutano. Diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre al solito orario, alle 20.30 fino alle 21.30. Ascoltateci sempre dalle nostre piattaforme, quindi radiocerranoweb.net ed altro. Alla prossima. Ciao, ciao a tutti e grazie.